sera abbiamo un ospite particolare, vogliamo dire Anna Besonderen Gast, il nostro sindaco Renzo Caramazzi, che presenterà il suo ultimo romanzo, Un socio di libertà. L'attività del dottor Caramazzi è da molti anni conosciuta, ecco, non solo nell'ambito culturale e della pubblica amministrazione, ma anche come autore apprezzato. Vedo questa sera anche alcuni associati della nuova associazione Scrittori Bolzanini che hanno supportato e hanno sostenuto anche il dottor Caramazzi, che è riuscito a pubblicare, e questo è un merito della sua bella penna e la capacità anche di fare ricerca storica quando inizia ad ambientare i propri romanzi. E quindi siamo molto contenti perché racconta, studia, ricerca e ci riporta indietro nei secoli della storia, della nostra storia locale, riuscendo a raccontarla e a inventare delle narrazioni molto appassionante e molto avvincenti. Io non dico altro perché non vorrei bloccare così la serata. Vedo che c'è già Mara Daroid, a cui cederò poi il microfono, che ci accompagnerà questa serata per le lettura dei brani. Vi auguro una piacevole serata e ringrazio ancora il nostro ospite. Ringrazio quanti sono venuti. Qua vi dimenticate il sindaco, c'è solo Lorenzo Caramazzi. Questo libro l'ho scritto nel 2014, è uscito nel 2016 e devo dire che ho pregato l'editore Musa di ritardarlo un po'. Chi lo compra potrà vedere che è uscito pochi giorni dopo il risultato delle elezioni, perché non volevo, ero abbastanza ingenuo, che l'uscita antecedente alla data delle elezioni potesse essere intesa come una forma di pubblicità. Ero un illuso, perché tanto in Italia i libri li comprano pochi e quindi non sarebbe stato questo l'effetto determinante. Devo dire che questo, Un soffio di libertà, è la storia di una passione d'amore tra un sergente francese dell'epoca napoleonica e una bella luterana di Stoana Steinach, che è un villaggio tra San Pietro e San Jacopo in Val Aurina. E questo romanzo, vi devo dire, nasce primo da questo libro che Rezza ha edito nel 2012 e che ha raccolto 40 escursioni in Val Aurina. E in una di queste, siccome a me piace un po' approfondire l'elemento culturale, quello che trovavo, piccolo, grande, momenti di storia, di piccola umanità, mi sono incontrato, mi sono fermato a mangiare un panino al Cordillère Gasthaus e questo mi ha raccontato che suo nonno gli aveva raccontato che c'erano fra i francesi. Ho detto perché Cordillère? Lui mi aveva detto cordon dalla bandoliera, che c'erano i francesi. Io l'ho scritto qui. Mi arriva un'email, quindi nel 2013, fine 2013, di un colonna nobile romano, capo dell'IBM, che si è comprato una casa di fianco al Gasthaus Cordier, e mi dice: ma lei nel suo libro dice che era francese, siccome ha comprato la casa può approfondire. E quindi mi sono messo a cercare, ho trovato, qui c'è Robert Hofgruber, Merner, Innerhofer, Rudolf Fischer, mi ha mandato una tesi che studiava tutto il villaggio di Steinach. E poi vedo che dal punto di vista catastale c'è stata una modifica, era la casa del sarto, e poi quando Napoleone è andato via, però catastalmente è stata venduta con nome Cordier. E quindi Cordier, detto in francese Cordillier, in tedesco Cordillet, ma è lì che viene fuori il momento. Poi ricerco e mi innamoro. Io conosco la Val Aurina, veramente l'ho fatta tante volte, adesso non riesco a fare più niente, devo dire, però a un certo punto mi sono così appassionato, e il catasto, la bella luterana, questo cimitero su di San Pietro che ha una vista meravigliosa. Sono andato su una giornata d'autunno con il Larice ancora tutto infuocato, da mamma mia questa storia. La luterana bella me la sono inventata, ma l'avevo vista, ma era veramente bella. Il sergente francese sì, la storia c'era, e quindi a un certo punto dico: ma incomincio a scrivere. Mentre incomincio a scrivere, questo che ristruttura la casa trova a mezzo metro sotto nel giardino questa baionetta che devo ancora dire, lui dichiarare qua, perché sono sindaco anche ufficiale giudiziario, quindi posso tenerla, e l'ha fatta vedere ed è una baionetta originale di un moschetto napoleonico trovato mezzo metro sottoterra nel giardino della casa che andava a ristrutturare. Quindi lì c'erano stati i francesi ed era talmente ovvio, perché lì era la casa della dogana dove facevano pagare i diritti delle miniere di Predoi. Lì c'è proprio, si allarga dopo Casere, Predoi, c'è quella gola profonda, quella forra micidiale dove tira sempre aria, veramente col fiume, col chi corre è veramente pericoloso. Poi si apre in questo soleggiato e sulla destra c'è proprio la strada che faceva una curva e c'era la bara dove facevano pagare i diritti di... Quindi questa storia, che è chiaramente un romanzo, non è che questo, devo dire che ho fatto molte ricerche storiche, avevo buon tempo allora, ero in pensione, facevo escursioni, scrivevo, mi divertivo, e questo sarebbe il sesto romanzo, però è uscito come quarto perché mi piaceva particolarmente. E allora inviterei la Mara a leggere, incominciamo dalla fine, siccome l'ho presentato, questa presentazione è stata rinviata perché è uscito in maggio, poi dovevo farlo in settembre, poi non so, in ottobre, poi avevo di qua e di là, finalmente siamo arrivati adesso, e quindi vi leggerà il brano finale, che si chiama il personaggio Lorenz. Devo dire che qui doveva chiamarsi Robert Hofgruber, che è qui in sala, che viene da Bressanone. Faccio un inciso perché questa è, e gli ho detto ti chiamo Robert, no, perché è più giusto Lorenz, che Lorenz si capisce poi chi è, perché è metà lui, metà sono io. Però il fatto è che alla fine voi capirete che ci sono, e si capisce, parto da Napoleone e vado a finire in Canada dagli Uteriti, e lui era il presidente, ha messo in piedi questo Arbeit Kreis per fare la pace con gli Uteriti tra cattolici e creare a Innsbruck un parco di Utterer Park, giusto? E non so perché il Comina, che qua, che sembra abbastanza pigro, lui aveva mandato un invito a Comina, che prima di spostarsi, se non per i fatti suoi, è lento e stanco. Allora io, che ero in pensione, sono andato al posto suo, ho conosciuto lui, poi mi sono appassionato e sono andato a 4-5 riunioni ad Innsbruck. Faccio un inciso, voi chi ha una pistola può ammazzarmi se no vado avanti come una mitraglia, ma voglio raccontare questo, lui non so se se lo ricorda. Alla fine sono venuti questi Uteriti, l'abbiamo fatti venire anche a Nalles, mi sembra, da quelle parti, e col centro della pace, e poi il circolo che è fatto da lui, che è cattolico progressista, che vuole dare sacramenti anche alle donne che possono fare i preti, giusto? Dico giusto. Poi c'era un evangelico, un prete evangelico di Brunico, uno della Svizzera. Io che non ero niente, sì, un peccatore, basta. Alla fine è andato tutto bene e hanno fatto una cena ad Innsbruck dove hanno mangiato, e loro all'inizio, tutti evangelici, cattolici, eccetera, hanno pregato, ringraziato. Io ero lì in imbarazzo che non dicevo niente, e poi quando è terminato io ho detto io non lo faccio mai, e guidava il gruppo una signora, ha detto wir beten unser Gott damit Renzo Candi, e poi ha invocato la fede di Dio che potesse colpire questo povero peccatore di Renzo, e quindi da lì non è che sia migliorato, però spero di sì. Allora do la parola alla Mara, legge questo brano, e poi, siccome io cito l'ultimo dei quattro leader di Strauss, dei Fidelitz leader di Strauss, che parla in Abendrot, nel rosso della sera, nel tramonto, vi faccio sentire questo breve brano, perché è stupendo, dura 8 minuti, quindi chi non piace la musica classica si annoierà un po', però 8 minuti di ascolto non faranno male, perché è citato dentro nel romanzo. Buonasera. Nel suo vagare alla ricerca di appigli di storia, si è recato più volte ad Ingmaren, nel piccolo camposanto, le cimitière des Héros. Una scritta dipinta su una freccia in legno indicava le poche decine di metri di sentiero erboso che portavano al cimitero. 8 croci senza nome ricordavano la battaglia di Bruneck del 2 dicembre 1809. Aveva partecipato alla cerimonia in ricordo dei soldati napoleonici, succedeva ogni anno, nella seconda domenica di luglio. Alla messa al campo, celebrata per ricordare i caduti francesi, erano presenti le autorità di Bruneck e quelle della gemellata città di Brignon. Era stata una cerimonia semplice. I momenti salienti erano stati accompagnati dalle meste note di una banda. Le bandiere di alcune compagnie di Schützen avevano reso gli onori militari. Poveri giovani, seppelliti senza il loro nome, 7 francesi e un bavarese. Lorenz aveva udito ed era intervenuto. No, aveva detto, uno di loro era trentino, ma conosceva il tedesco. Uno di questi soldati si chiamava François ed era sergente. Lo avevano guardato increduli. Conosce il nome? Chi glielo ha detto? Un piccolo utilita canadese. È sicuro? Sì, certo, perché credo nella vita. Si era girato e se n'era andato. Lorenz aveva arbitrariamente deciso che il primo tumulo a destra, quello vicino alla grande croce in legno, fosse la tomba di François e quella accanto quella dell'italiano. Nei giorni successivi aveva deposto un bouquet di spighe di frumento e di orzo frammischiate a qualche fiore. Agli altri soldati, quelli addetti alla bocca di fuoco di Aufhofen, aveva riservato un garofano rosso scuro. Non lo avevano considerata una persona eccentrica. Dice di sapere. Mentre se ne andava, aveva colto l'ironia riservata agli anziani quando raccontano fatti ai quali nessuno crede, quando l'ignoranza si trasforma in dileggio. Lui sapeva che non erano fronzoli di storia, che la sua era un'idea intelligente, il fascino di un'intuizione, l'impegno della ricerca, lo scrostamento di diffidenze e diabolie. Lorenz aveva finalmente dato dignità ai sussurri di pace di quei giovani corpi. Quando tornava dalle lunghe escursioni, con i muscoli sempre più stanchi, faceva sosta al Cimetière des Héros. Vi si recava per lenire la malinconia del suo ansimante incedere. Aveva ascoltato infinite volte il Vier letzte Lieder di Strauss. Aveva impresso nella sua memoria il quarto. Gli piaceva maledettamente l'ultima strofa. Oh, grande, silenziosa pace, così profonda nel costeggiare del tramonto. Siamo stanchi di vagabondare. È questa, forse, la morte. Al piccolo cimitero degli eroi, la melodia riecheggiava nella sua mente. Viveva la sua notte, il pieno dell'infinito. Una pace anticipata. Capiva la vita, la passione, la sofferenza e la morte. I suoi occhi incontravano il sorriso di François, il piccolo utilita canadese, un senza fine di vita, di illusioni. L'ultimo sforzo di essere paziente con se stesso. Tempo ringrazio Sua Eccellenza il Commissario del Governo che mi onora di questa presenza, qua c'è il Sindaco, però bella cosa. E questo che ho raccontato veramente avviene, cioè a Dittenheim, poco dopo il campo di calcio, c'è questo Cimetière des Héros, cimitero degli eroi francesi, e sono veramente contento perché domenica scorsa ho pranzato con Zoder, mio grande ammiratore, mi ha autorizzato a dirlo, e poi ho fatto un'escursione sotto l'acqua, tutto ghiacciato, poi si è aperto un po', ho fatto anche delle foto, e tornando, io vado sempre, quando andavo in Val d'Aurina, tornando, andavo sempre al cimitero degli eroi e mettevo un fiore su questo François, che chiaramente ho deciso io che fosse il primo sulla destra, arbitrariamente. Adesso tutti sono convinti lassù che sia il primo da a destra. E devo dire con grande soddisfazione che hanno rifatto tutto nuovo, la staccionata in legno, tutte le indicazioni, i cartelli, e molta gente, dopo che è uscito questo volume, va a vedere perché non ci credeva. Io ho portato Zolder perché lui non lo sapeva, e molti cittadini di Brunico, qui c'è l'avvocato Pasquali, che è stato testimone della cerimonia di quest'estate, sempre la seconda domenica del mese di luglio c'è sempre un generale in uniforme francese con l'istituzione, il prete che fa, e io ho presentato lì il libro, devo dire con molto orgoglio, in tedesco e in francese, e il generale francese è rimasto un po' colpito che in Valle Aurina parlassero il francese, comunque l'ho spiazzato, è stato un motivo di orgoglio. Quindi adesso ascoltiamo questo Imhabenrot, l'interpretazione, devo dire, ho fatto un po' fatica a trovare per Amazon, siamo riusciti in Giappone, me l'hanno fatto venire dal Giappone, da che la cultura europea sta andando un po' a picco, è musica difficile, però i Berliner con Abbado e Carita Mattila, che è una cantante molto amata da Abbado per la sua voce, che se qualcuno, quelli che hanno una certa età, nell'83 è venuta con l'orchestra giovanile europea da Abbado a fare il Dolces Requiem, ed era la voce, Carita Mattila, era lei che ora sentite, quindi dura solo 8 minuti, un po' di pazienza. Thank you. E questa musica sono i versi di Eichendorff musicati da Strauss, dove dice in Abendrot, nel rosso della sera, ma sono questi forse i colori della morte, allora la morte è bella. Allora io non ho nessuna voglia di morire, mi ascolto sempre questa musica perché dico, Madonna, sei così bella con questi colori, con i tramonti della montagna, mi consolo un po'. E quindi ho fatto sentire questa vecchiaia, ma devo dire che termina dicendo il protagonista che dovrà avere molta pazienza con se stesso. Io adesso devo dire che gli altri devono avere, io pensavo di dover avere pazienza solo con me stesso, adesso saranno ancora gli altri che devono averla con me, io con loro, quindi sarà una reciproca sopportazione e stima. Ma perché è questo Utterita, che si chiama il piccoletto François, e lui, quando questo cattolico rappresentante dell'Arbeitskreis, perché si scambiano le visite con gli Utteriti in Canada, e vede questo bimbetto biondino che arriva e dice in dialetto, non so se dico giusto, di hast du François? E lui dice nein, Franz, nein, François. Poi vede un bottoncino di una divisa di napoleonica, perché sapeva, e quindi ha capito che quel bambino Utterita si chiamava François, altro non era che l'erede della testimonianza della passione di François e di Maddalena, che era nata in Val Laurina durante l'occupazione francese. Io devo dire che mi ha preso questa storia, e la Mara da Roy che recita, si sceglie lei i testi, io è difficile che li indichi, ed è così brava che per farmi vedere i libri evita i punti cruciali dove si possa capire, quelli che avviso le donne che ci sono dei momenti di commozione. E qui, mentre scrivevo, dico, ma pensavo mio nipotino se fosse in quella situazione, e quindi evita i momenti topici di tensione e fa una lettura chiaramente di bella scrittura che spero che voi apprezziate, però mi sono messo dentro nel personaggio. E questo, voi dovete immaginare un sergente francese giovane di 24 anni che arriva in Val Laurina, il suo Astoana, passando per anticipando il grosso delle truppe che andava a Brunico attraverso questo passo, l'Oe Tower, il passo alto del gioco dei Tauri, che ho fatto 3, 4, 5, 6 volte di qua e di là, che è più bello dalla parte austriaca con delle stupende cascate che dalla parte italiana, e si trova in questo paesini di affamati, persi nella montagna nel 1800, e quindi è il portatore della libertà, égalité, fraternité, della grande rivoluzione francese, dell'armata napoleonica, che arriva con la presunzione di portare la libertà a questi contadini, che quando li convoca a un certo punto gli dice, sì, tutto giusto, ma noi siamo già uguali nella fame. E comincia a scazzarsi, poi vede Maddalena dopo un po', e quindi c'è una passione che si sviluppa in quei 4 mesi di permanenza tra luglio, quando sono arrivati, poi arriva il grosso delle truppe napoleoniche a Brunico, e poi la battaglia l'ultima. Andrea Sofra nel frattempo aveva vinto nell'agosto Barghese, aveva vinto altre battaglie, e poi però c'è la sconfitta del 1809 nel 2 dicembre, alla quale sono seguite veramente delle rappresaglie francesi che sono state tremende. Dei contadini sono morti un centinaio e i francesi sono morti questi 8, che li hanno buttati su un carretto, quello è vero, e li hanno persi nel bosco. Poi chiaramente necessità di preghiera, di bontà umana e anche fatti igienici li hanno presi e li hanno seppelliti fuori del campo santo, perché non erano degni di essere ospitati al campo santo, e sono seppelliti laddove attualmente c'è il cimitero di Zero. E devo dire che coloro che curano, noi certe volte quelli della croce dei caduti di guerra li guardiamo con sospetto, ma hanno una bontà. Pensate che per la cerimonia loro piantano, sapendo che la seconda domenica di luglio, piantano dei fiori rossi nelle tombe che fioriscono quando c'è la cerimonia. Poi ci sono le corone con Dittena in Brunico e i colori dello Stato francese, il tricolore francese. Quindi veramente è un senso di solidarietà, di umana pietà per questo giovane. Questo giovane poi innamorato che muore lì, muore. E quindi Maddalena che aspetta sta figlia, da François poi è luterana, è una valle cattolica, che ha avuto una figlia, bellissima anche lei, da un francese miscredente rivoluzionario. Quindi viene incominciata, è troppo bella, viene rincorsa, lì c'erano i bagni, le case di meretrice, non è che l'Alto Adige allora fosse, cioè aveva tutto quello che ha sempre avuto tutto il mondo, e quindi deve fuggire, si rifugia in una comunità al di là del passo luterano, ma poi anche lì comincia la persecuzione, questo fanatismo religioso che non gli concede di aver avuto dei rapporti con un francese e aver avuto una figlia legalmente non codificata dalle norme. Quindi io qui lascio andare, se lei viene e legge ancora qualche brano, poi quale andiamo avanti. Quale preferisce, Renzo? Quello che vuoi. Se volete cominciamo dall'inizio stavolta? Sì, sì, ecco, allora ecco, inizia dall'inizio quando sta arrivando e supera e arriva, va bene, grazie. La breve colonna si era inerpicata sul versante nord degli Alpeggi, scomparsa in alto tra uno sfasciume di massi, una tagliente pietraia con pochi sprazzi di verde. Gli uomini avevano superato la parte più accidentata, avevano sfiorato lingue di ghiaccio, la pelle bruciata dal sole. «Avanti, serrate, sembrate vacche al pascolo», aveva esortato il sergente. I soldati erano appesantiti, con la coperta da campo e le palandrane per difendersi dal gelo invernale, arrotolate e ben fissate allo zaino con cinghie di cuoio, il moschetto sulla spalla, la baionetta di lato vicino alla sciabola e il vigiverme con la polvere e le palle di piombo. Erano partiti dai giorni di Vagan il 10 luglio, 4 giorni dopo la fine della battaglia. Erano stati costretti a 10 giorni di marce forzate. Erano entrati in un territorio all'apparenza tranquillo, ma sapevano che era loro ostile. Altre volte avevano superato le Alpi, ma ora era tutto diverso. Erano un contingente di uomini, perso tra cime che non parlavano di pace. Raggiunta la maestosa catena degli Alti Tauri, erano stati colpiti dalla bellezza delle creste affilate che chiudevano la valle. Il plotone si muoveva all'interno di un territorio di cui il destino non era ancora stato deciso. La tregua era stata firmata a Znaim solo il 17 luglio, ma era un silenzio di armi precario. Penetrare con 20 uomini in un territorio sconosciuto rasentava la follia. Non avrebbero dovuto dare nell'occhio, ma era impossibile. Avevano avuto l'ordine di percorrere una via diversa rispetto a quella più agevole ma più lunga, che passando per Linz e introducendosi nella Valposteria avrebbe condotto le truppe francesi a presidiare la cittadina di Brunec, Brunico. L'incarico loro affidato era azzardato. La presenza del plotone anticipava le scelte di pace disegnate dai regnanti. La via avrebbe dovuto costituire un cammino abbreviato per raggiungere Brunec e controllare dalla cittadina la parte orientale della posteria, per accorciare i tempi secondo le necessità e le evenienze, un aiuto agli altezzosi bavaresi, incapaci di gestire territori più grandi della loro testa. Quelli erano alleati scomodi, intriganti, presuntuosi e privi di capacità militari. Una brutta copia della grandezza francese, un fardello strategico pesante da sopportare. Avrebbero dovuto studiare quei monti, ammansirli e controllarli. Sarebbe stata una bella impresa. Il contingente di soldati doveva raggiungere la testata della valle per presidiare l'esazione delle tasse nel luogo di transito dei carri che trasportavano verso Sand, Campo Tures, il rame delle miniere di Pertau, Predoi, per controllare che i grilli imperiali sull'estratto, un tempo riservati agli Asburgo, fossero dirottati nelle esauste casse del tricolore francese. Il plotone era composto da francesi, ma tra le sue fila contava anche un soldato italiano, ammiratore di Napoleone. Era originario di un paese vicino a Trento. La sua presenza si sarebbe rivelata preziosa. Andiamo avanti, si inserisce e quindi faccio un riferimento storico: gli alleati bavaresi dell'impero napoleonico che avevano così smembrato il Tirolo ed erano veramente, non avevano capacità militari, i francesi erano la vera armata, però avevano un'influenza economica molto forte. Quindi quando sono arrivato, e quindi paralleli con oggi saltano evidenti, noi ce l'abbiamo con la Merkel che invece è bravissima, io sono un ammiratore della Merkel, però vediamo sempre la Germania come qualcosa di forte che invade, e lì però è successo, perché questi contadini della Valaurina che coltivano il farro, che coltivano queste granaglie di alta quota con rese bassissime, avendo aperto i confini, sono stati invasi dalla Baviera, dai contadini della Baviera, e quindi i prezzi sono crollati, questi contadini non riuscivano a vendere il loro prodotto e a ottenere il denaro necessario per prendere le falci, e quindi c'è stata quella fame, quella crisi economica che, aggiunta poi all'irruenza un po' eccessiva dei francesi di voler imporre la loro mentalità, quando si impone la democrazia, vediamo nel mondo, si casca sempre nell'errore, si vogliono anticipare i tempi, precorrere, inserire mentalità che non sono pronte a recepirle, e quindi si fa questo errore, l'hanno fatto anche i francesi, perché gli hanno imposto, tanto vietato di andare a messa, vietato di battere le campane, vietato, e l'errore più grosso è stato quello della coscrizione obbligatoria, lì è stato veramente l'errore madornale, perché l'imperatore Massimiliano nell'Andelibella già dal 1511 aveva concesso ai contadini, li aveva esentati dal servizio militare, obbligandoli, d'accordo anche loro, di intervenire laddove fossero stati invasi, ma mai fare guerre di offesa. Qui c'è il dottor Obermeier, attenzione, non è come l'anno scorso, qui è il capo dell'archivio storico. Se faccio un errore lei non intervenga, perché sennò gli scatti di anzianità vanno a rischio. Ma sono molto preparato, perché lui li legge, quindi. E quindi cosa succede? Che imponendo la coscrizione obbligatoria nei masi alti della Valaurina, io ho provato per 2 giorni a tagliare l'erba in questi pendii che sono così, a parte la fatica, il pericolo, ma veramente spacca la schiena, pur essendo un po' lenato del cammino, sono eroici a mantenere questi prati in quei pendii che sono pericolosi, che d'inverno grattano via la terra e poi sono costretti con i cavalli a riportarla su, perché ci sono delle limate con queste valanghe che sono micidiali. Quindi tra la resa scarsa delle loro granaglie, l'importazione massiva dalla Baviera, l'obbligo di sottrarre le braccia dei giovani, se non ci sono i giovani con cosa si coltiva la terra, c'è stata veramente l'infiammata contro i francesi, che avevano imposto un tipo di mentalità, e che il sergente pian piano, in cui al di là dell'innamoramento con Maddalena, col padre comincia un colloquio di confronto. E questo, l'altro giorno ho incrociato il generale subentrante della Guardia di Finanza, nessuno sapeva che fossero i cordonisti, lui lo sapeva, perché era la finanza del tempo, e i soldati, quelli ammaccati che avevano fatto le battaglie feriti, li mettevano a presidiare i confini o i punti di esazione. Quindi il cordonista, il cordier, ecco perché il cordonista è l'equivalente vecchio di un corpo di finanzieri del 1760, che era adibito a questo compito, da qui quindi il cordonisten, Haushäusel, e poi Cordiller, dopo che sono passati i francesi. Ed è bello questo confronto che cresce tra il giovane, così con baldanza imponeva il suo, era veramente convinto, e solo e di fronte a questo cordonista, che aveva l'esperienza sul lato, aveva fatto le battaglie, pian piano si confronta, e questo capisce che è un corpo estraneo, che è un di più non accettato dalla valle, rispettato ma non accettato. E quindi c'è una specie di sofferenza, perché lui ha fatto il suo giuramento, è entusiasta della rivoluzione francese, nello stesso tempo capisce che diventa un eccesso di vita, di imposizione in una città povera, in una valle povera, estremamente povera, dove la fame si... Per descrivere le divise, tanto perché mi diverto a scrivere, a parte la fatica di scrivere, del limare, però quella della ricerca storica, sulle divise dell'esercito napoleonico spiegato, poi loro ambivano a avere il filetto d'argento sul moschetto e sulla sciabola, perché era il riconoscimento, era il raddoppio della paga, ma per chi aveva dato dimostrazione di coraggio. Praticamente l'esercito francese, quello di Napoleone, ha avuto i generali più giovani della storia, più balanzosi, più ruenti, più coraggiosi, e veramente ha avuto questa spinta perché erano convinti e poi non si tiravano mai indietro. Quindi questo giovane che ha avuto il riconoscimento, quella pattuglia di francesi, era questa mitica fanteria francese che era capace di fare 60, 70, 80 chilometri, camminare di notte al giorno nel buio e poi combattere. E questi erano giovani non fanatici, erano entusiasti della loro idea. Però pian piano lì si smozza e all'entusiasmo dell'idea gli si accompagna la presa di coscienza di questa difficoltà. Allora la mare adesso passerei, se c'hai, perché non ci siamo sentiti, perché vengo dall'inaugurazione del parco dei bambini della stazione, quando lui lascia il villaggio, se ce l'hai. Sì, è esattamente questo. Sì. Lui a un certo punto deve, faccio una premessa, siamo già a fine novembre, deve abbandonare il villaggio, non vuole abbandonarlo, però il grosso delle truppe a Brunico capisce che c'è la battaglia, deve raggiungere il suo dovere, lo chiama, però insomma il cuore batte per quel piccolo villaggio. Dopo che si è sviluppata questa grande passione non platonica. No. Ho avuto una figlia. Gli avvenimenti li avevano ripresi, contro voglia, ciascuno al suo posto, tutti fuori posto. Il sergente viveva giorni non suoi, ammorbiditi dal tempo, incostante nel pensiero. Nel suo intimo non era più un soldato, ma doveva esserlo. Aveva guardato negli occhi Maddalena ed entrambi avevano compreso. Il sergente era in ritardo sui suoi uomini, intristito da una vita negata. L'italiano lo attendeva, si era allontanato, aveva oltrepassato il piccolo ponte di Tronchi, aveva concesso al sergente il tempo per staccarsi da Maddalena. I soldati avevano capito, erano partecipi dei sentimenti che laceravano il loro comandante. Il plotone, su suo ordine, si era avviato di buon passo. Avrebbe dovuto raggiungere Brunneck per unirsi al grosso delle truppe francesi. Lui e l'italiano sarebbero seguiti. Si era concesso la speranza di un ritorno. Soffriva. Quel piccolo mondo lo aveva preso. Per Maddalena provava una passione struggente, cresciuta in notti d'amore. La forza dell'attrazione faticava a distaccarsi. Difficile distinguere giusto e sbagliato, onore e virtù, tradimento. Di cosa? Del giuramento, della bandiera, dell'amore o della vita? Cos'era più importante? Era frastornato. Decidere era un peso immenso. Avrebbe voluto sgusciare dalla realtà, vivere o morire, di fuori, di dentro, sopravvivere ai suoi sentimenti o dimenticarli. L'anima spezzata. Mi sarebbero mancati gli uomini del villaggio, i loro sguardi pungenti, capaci di parlare con silenzio. Provava nostalgia di quell'estate avara di sole, già preparata ai primi impeti del vento autunnale. Quelle case coperte da un biancore innocuo non erano più nulla. Non erano più una postazione di frontiera. Se non ci fossero state le miniere, quello sarebbe stato l'ultimo posto del mondo, una terra dimenticata da Dio. I monti erano muti, non davano confidenza, ma parlavano per la loro gente. Si era imposto di liberarsi dalla patina di inettitudine che lo opprimeva. Era giunto il momento di ripulirsi dall'inerzia, risolvere titubanze senza rimorsi di coscienza. Nel suo intimo era felice di uscire dal letargo. Non c'erano esperienze che giustificassero ancora il suo immobilismo. Lo spirito di tante battaglie gli pulsava forte. Doveva. Non si erano concessi nessun abbraccio, solo una carezza al viso e una dolcissima sul ventre di Maddalena, uno sguardo che non voleva finire. Si erano avvolti nella loro immensa tristezza, la ferma compostezza di un addio che nella passione aveva scoperto la dignità dei sentimenti. Maddalena era rimasta eretta, lo scialle sulle spalle, molto serio, bellissima, i suoi occhi lucidi di nostalgia e un pallido sorriso. Il sergente avrebbe voluto fermare il tempo, sentire battere all'infinito la medesima ora, rincorrere baci ormai persi, appagarsi del giallo intenso dei prati fioriti. La figura di Maddalena si stagliava sul bianco che ammorbidiva tutto. Tante vite, immerse nel silenzio di una sommessa sofferenza. La casa, calda di passione, nell'equilibrio di un tenue profilo, era scomparsa alla vista. Solo un filo di fumo bianco, sfumato nel cielo. Molto bene, però qui gli ho dato dentro, c'è un mese di passione, di anima, di nostalgia. Devo dire che ho limato. Io normalmente scrivo la storia e scrivo sempre l'eccesso e poi faccio fatica a cancellarmi, perché è come un annientarsi, però bisogna cancellarsi, pulire, togliere gli aggettivi. Ho preso un libro di Mom, è capitato, di un mercatino usato, e c'era scritto usare pochi aggettivi, e io ne ho una bellissima giornata di un sole splendente, allora bisogna togliere splendente e bellissima, una giornata di sole pieno, eh. E poi lui racconta che ha scritto un romanzo senza aggettivi, perché troppo, veramente troppo storpia. Lui però li ha aboliti, l'ha tenuto lì 2 anni, poi l'ha ripreso e dice: no, gli aggettivi ci vogliono, non troppi, però senza aggettivi non si va da nessuna parte. Allora io seguo queste regole, quindi mi cancello, mi accorcio. Tendenzialmente uno è portato a scrivere molto, io scrivo molto abbastanza veloce, e poi quando rileggo il momento più difficile, quando nel computer incomincio a cancellare 5 righe, no? Allora lì bisogna fare violenza su se stessi, però poi scorre meglio. Quindi parte, però lì c'è un altro personaggio che è il capo del villaggio di questa Stoana in dialetto, che ha la sua dignità e fa capire a questo giovane che la fatica, la vita è dolore e arrancare, e quindi questo l'ha anticipato nella lotta con i contadini. E lui si troveranno nelle linee contrapposte, ma si riconoscono nello sguardo e non vorrebbero uccidersi, però non sono più capaci di fermarsi perché non possono fermarsi. François non vuole, e lui ha la fiamma per accendere il cannone e sparare a mitraglia a zero, e sono devastanti i cannoni ad altezza d'uomo, pieni di bile, fanno dei vuoti immensi. E poi riconosce questo, quindi butta la fiamma a terra e il trentino la prende e dice: cosa fai? Sei impazzito? Sergente, fuoco, ci arrivano addosso, paf! E muoiono. Però nel frattempo quelli, una cannonata fa i vuoti, però gli altri arrivano e li trafiggono. E voi pensate che i contadini non avevano questo, avevano falci, forconi, però tanti forconi sulla pancia. E lì è veramente un momento di strazio, perché Lui si rivolge verso la Val Aurina con i suoi monti innevati, e quindi muore con questo suono nello sguardo. Io vorrei che Mara, perché per le 7:15 andiamo via, così non annoia nessuno, siccome la Mara è molto brava, si è preparata e mi piace come legge, scusate, ho l'orgoglio di sentirmi letto da lei, un conto è scrivere bello, però sentire è altrettanto bello, quindi vai dove vuoi, dopo dove c'è la battaglia. Sì, sì, sì. No, qui si cambia registro, niente più romanticismo. Quasi. Avevano raggiunto la postazione ed erano riusciti a girare il cannone sulle pesanti ruote per volgerlo contro i contadini che avanzavano, ebbri di preghiere. Il sergente rifiutava la morte, si era innamorato della vita, aveva capito l'imbroglio della patria, della bandiera, dell'onore, dei re e degli imperatori. un brivido gli aveva percorso la schiena. Il patriottismo era divenuto l'abisso della sua coscienza. Nel suo animo erano svaniti gli ideali di una rivoluzione smarritasi nella sua indifferenza. La bocca da fuoco era stata puntata contro i contadini. Dovevano caricare il pezzo a mitraglia, porlo ad alzo zero e fare fuoco prima di essere sopraffatti. I contadini avevano affrettato un passo per accorciarsi la vita. La loro linea rimaneva compatta, gagliarda, parlano trasformati. Il sergente si era affrettato e aveva inserito nella bocca del cannone un proiettile a grappolo. Era pronto a dare fuoco alle polveri. Aveva acceso la torcia. Avrebbe provocato una strage. Quelli avanzavano correndo, si stagliavano nitidi nell'abbozzato controluce. Erano così vicini che potevano sentire i respiri. Gli ordini di guerra prendevano corpo. «Dai, dai, ti aspetta! Fuoco!» aveva urlato l'italiano. Il sergente aveva riconosciuto al centro della schiera l'onde suona. Sì, era proprio lui, Jacob, l'uomo della saggezza, quello che gli aveva lasciato la vita per combattere da pari a pari. L'esitazione lo aveva assalito. In quella linea di uomini aveva riconosciuto anche il volto di due giovani di Sankt-Jakob, Josef e Matthias, quelli che lo avevano bloccato sopra Steinhaus, e anche il volto del padre del bimbo dell'Eiderhof. I contadini avevano visto il cannone, avevano capito che era pronto al fuoco, ma da loro nessun segno di sbandamento. «Fuoco, mon Dieu! Fuoco, per Dio!» aveva urlato terrorizzato l'italiano. Il sergente aveva incrociato lo sguardo del capovillaggio. Lo aveva visto stravolto, le guance incavate. Il dolore segnava un viso contratto che desiderava vivere. Si erano capiti. Si sarebbero rubati la gioia e la fatica del domani. Non potevano più nulla, anche loro trafitti dalla volgarità dell'uomo, uniti nell'ingiustizia della guerra. Nei suoi occhi non c'era crudeltà, aveva letto la tremante angoscia della morte. Il sergente sembrava paralizzato. Poi aveva scelto con il cuore. «No, no, via, via, via!» aveva urlato con tutte le sue forze. Era stato l'urlo della coscienza finalmente risolta. Si era scostato dal cannone di buoni cinque passi. Aveva gettato la sciabola, alzato le braccia, agitandole, lanciando un disperato urlo. «Avete! Pe! Pe! Fermatevi! Pace! Pace!» Aveva trovato se stesso e la sua libertà. Troppo tardi. I contadini erano avanzati ancora più rapidi, sempre più vicini. L'italiano aveva strappato la torcia dalla mano del sergente. Un balzo aveva raggiunto il pezzo e acceso la miccia. Un secco boato, una fiammata e poi l'acre odore dello scoppio avevano incendiato ricordi di nulla e di tutto. La scarica a mitraglia era stata devastante. Da qui chiaramente, come avevo anticipato, non accelero perché sono già le 7:05, quindi voglio restare nei tempi. E Maddalena rimane sola con la figlia, deve fuggire, diventa da luterana strada facendo. Andando a Silverburgen incontra un gruppo di uteriti, diventa uterita, ed è una reazione alla violenza della guerra, alla violenza della vita. Gli uteriti sono dei pacifisti convinti, veramente convinti, che sono disposti al martirio come i primi cristiani. E in Canada, anche se non sono simpatici perché sono degli antesignani del non consumo, non è che si antichi, consumano l'essenziale, vivono in queste comunità, sono molto ricchi perché producono molto grano, credo che metà pasta Barilla sia fatta del grano degli uteriti. E quindi cosa fanno? Quando vanno, mi ha raccontato qua, anche devo dire che il padre di Nerofre, qui ci sono alcuni personaggi che mi hanno vissuto con i luteriti, li conoscono, e quindi mi ha raccontato, il prete di Nerofre mi diceva di una ignoranza abissale, tant'è che c'è un po' di riferimento, altri dicono, beh, è gente normale, però è la Bibbia l'essenza della vita. E quindi io ho scritto, mi sono permesso di scrivere, che staccano dividendi di tranquillità. È una società che stacca dividendi di tranquillità, però è anche monotona, molto dura da vivere, sono molto severi con se stessi. E quindi c'è questo, Maddalena muore in territorio russo, e da lì, perché sono accolti i luteriti da prima in territorio russo perché non erano obbligati a fare servizio militare, quando introducono il servizio militare vanno negli Stati Uniti, scoppia la prima guerra mondiale e quindi sono costretti alla leva, quindi vanno in Canada e si sono fatti fare delle leggi affinché le loro casse non venissero usate, quindi è l'allarme che i luteriti ancora non hanno, però sono molto evoluti dal punto di vista del controllo anche della maturazione del frumento, e quindi hanno queste grandi distese. Mi raccontava il prete che si parte da Bolzano, si arriva a Trento con queste, e quindi hanno capacità finanziaria, però vivono modestamente. E perché non sono molto amati? Perché certe volte per risparmiare, ma non proprio, fanno 300 km, lì le distanze sono immense, e vanno nei supermercati, quando ci sono i prodotti che stanno per scadere, comprano quelli con 60%, 70% dello sconto e via, e poi vivono per 6 mesi, poi vivono di quello che producono. Però è bella la storia di questa Maddalena che ha nascosto il bottone della divisa di François che è morto, e quindi in punto di morte chiede a Françoise, a sua figlia che si chiama Françoise, di portare sempre quel bottone come ricordo, e che ogni uomo, ogni donna, loro discendente, a ricordo di François, portasse sempre il nome di François o Françoise. E quindi ecco perché ci riconduciamo dove avevamo iniziato la fine, e il piccolo uterita che si chiama François e non si chiama Franz, pur essendo tedesco. Questi parlano un tedesco antico, devo dire che quelle poche volte, una volta mi sono trovato bene, perché parlando io malissimo il tedesco e parlando con tanti difetti, loro sono inglesi ma parlano un dialetto della Val Aurina, storpiavo il tedesco e quindi sembravo quasi che fosse vero, Robert, che è così. Però devo dire che mi ha dato soddisfazione scrivere questo, e vorrei, ecco qui una piccola pecca di orgoglio, che spero che da quello che ha letto così bene Mara si capisca perché Mussia l'ha preso. E quindi anticipo già che a maggio del prossimo anno uscirà un altro romanzo, e chi mi chiede, ma quando scrivi? Ne ho già scritti 6 prima di incominciare l'avventura del sindaco, quindi 6, e avevo i miei ritmi 2 all'anno, però adesso sto ultimando il 7º, però è da... ci ho messo un anno e ci metterò un altro anno, quindi da 6 mesi diventano 2 anni, sperando che ce la faccia. Quindi io voglio ringraziare qui, se Mara volesse leggere ancora un brano a sua scelta, e poi concludiamo. Quindi vi ringrazio della presenza, ma soprattutto Mara ha fatto, spero che non lo dica, l'ho schedata l'ultima volta, ho presentato questo libro a Brunico, naturalmente c'era Zoda, c'era Guana, poi lei finita, c'era molta gente a Brunico, e finita di leggere dice, ah, poi voglio dire una cosa, compratelo perché è molto bello, l'avrei strozzata, però era il libro precedente, sì, era il libro precedente, comprate anche questo. Però lascio dire all'autore, non a lei, perché sembrava che mi fossi messo d'accordo. Assolutamente no, mi avresti dito. Grazie. È un libro che fa arrivare fino a circa la metà pensando una determinata cosa e poi cambia completamente direzione, sorprendente. E questo è un momento strategico in cui Maddalena ha questa terribile avventura con sua figlia, scappano e passano queste situazioni. Maddalena aveva riempito i cenci della figlia di foglie secche e i gambali della suola di legno, di erba. All'inizio erano salite di buon passo, poi avevano rallentato e la madre aveva preso in braccio Françoise. erano riusciti a raggiungere il passo coperto da un'abbondante coltre bianca. A fatica erano discese lungo il versante opposto. Per 3 giorni erano avanzate sotto una pioggia insistente. I prati inzuppati erano divenuti scivolosi. In basso la strada resa fangosa. I piedi faticavano nella poltiglia. Arrivati al villaggio l'avevano riconosciuta, luterani anche loro. Solo il silenzio, non un invito, non un sorriso. Anche loro sapevano del suo peccato. Non erano diversi dagli altri, più severi dei cattolici. Guardavano, giudicavano. Da parte loro nessun gesto di umanità. Prostrate dalla fame, avevano proseguito a piedi e su carri per 5 interminabili giorni. Dovevano abituarsi alle voci umane. Poi, con l'aiuto di Dio, al 6° giorno erano giunte nella cittadina di Villach. Avevano chiesto della comunità luterana, gli avevano indicato l'edificio. Quando erano giunte, erano emerse da una povertà in grado di toccare anche la più insensata indifferenza. La bambina aveva scosso il pudore degli abitanti, storditi nel vedere 2 corpi avanzare allo stremo. Barcollanti, le ultime forze aggrappate alla sopravvivenza. Avevano percorso la via centrale della cittadina. Nessuno aveva osato chiedere chi fosse quella donna con la bambina. Le tenevano afflitte da malattie contagiose. Erano esauste, corpi smagriti, capelli aggrovigliati dal freddo. La bellezza di Maddalena aveva perso la freschezza giovanile. Il volto era tirato, lo smagliante sorriso di un tempo, chiuso da una smorfia di dolore, il passo strascicato, scalze entrambe, i piedi piagati da un eccesso di cammino. Con la bimba era entrata nell'edificio dei luterani, era stata assalita dallo sconforto, voleva inginocchiarsi, ma non reggeva. Si era seduta, si era portata le mani al volto. E aveva pianto, le labbra tremanti, un fremito scomposto. Poi si era assopita col capo reclino. La bambina, sfinita, dormiva al suo fianco, sdraiata sulla panca. Entrambe erano solo un flebile respiro. Nella piccola navata era entrata una signora di una semplice e decente umanità. Le aveva lasciate riposare. Aveva atteso, seduta sull'ultima panca, nel silenzio della preghiera, per non disturbare. Poi, quando Maddalena si era svegliata, aveva chiesto: «Da dove vieni?» «Da Stona, dalla Antol, con lei!» Le aveva ripulite, vestite e rifocillate, concedendo la speranza di cancellare i troppi sfregi che la cattiveria dell'uomo aveva loro inferto. Spero che quando uscirà il libro a maggio, il contratto è fatto per maggio il prossimo anno, poi chissà se sarà possibile, mi piacerebbe tornare a presentarlo lì, cambia tutta la storia, è altro mondo, e quindi lasciamo a quanto sarà. E vi ringrazio veramente di cuore. Grazie.